Compagno, da Lucca, dove, come abbiamo detto più volte oggi, c'è Renzi, c'è Matteo Renzi al, insomma, non so come si chiama, al convegno, quello che è, ce lo spiegherà meglio, sul volontariato. Pronto? Sì, vai. Pronto? Pronto. Oh, ciao. Ciao, sono Michele, sono un compagno di Lucca del, dell'Officina dei Saperi Antagonisti. Ah, benissimo. Allora, raccontaci un po' che cosa è venuto a fare Renzi oggi nella vostra bella città e che cosa avete deciso per dargli il benvenuto. Ok, allora, oggi Renzi è venuto in onore del Festival del Volontariato che si svolge appunto qua a Lucca, una città dove solitamente ci sono poche critiche. Appunto viene, è venuto nei giorni scorsi, sono venuti altri ministri, è venuto il ministro Giannini dell'istruzione, oggi stamattina è venuto il ministro Poletti e oggi pomeriggio appunto viene Renzi. Ma intanto crediamo che sia quantomeno una mossa politica quella di politicizzare il volontariato, perché mentre da una parte precarizzano i lavori retribuiti, dall'altra ampliano lo specchio di quello che chiamano la volontariato, cioè quello che ieri ci retribuivano, stanno cercando di non retribuirlo più. Abbiamo deciso appunto di opporci a queste politiche, al Job Act, al piano casa di Renzi, in concomitanza con la manifestazione che è a Roma, con le parole d'ordine una sola grande opera, casa reddito per tutti. Faremo un corteo in città dove ribadiremo la nostra posizione, che è appunto opposta a quella delle politiche di questo governo. Senti, quindi già adesso siete in piazza? Noi siamo già in piazza. Dove siamo, si svolge? Siamo abbonati alle 3, sono arrivati dei compagni da Pisa, dei compagni da Livorno. Nulla, chiaramente siamo assenti nella manifestazione romana perché ritenevamo intelligente rimanere sul nostro territorio, visto che abbiamo visite tanto sgradite. Certo, mi sembra una scelta più che giusta. Senti, dove vi trovate? Penso che questo festival sarà al centro, dentro le mura. Sì, è dentro le mura, infatti abbiamo avuto vari problemi per riuscire a strappare il corteo alla questura, ma siamo riusciti. Renzi sarà all'interno del complesso di San Francesco, complesso fatto dalle fondazioni bancarie lucchesi con i soldi di tutti e regalato a quella che è la scuola d'élite di MT, che è una scuola statale ma che di pubblico ha veramente poco. Siamo stati una settimana fa a contestare appunto fuori dalla stessa struttura Quagliarella e Sacconi, che venivano a parlare in un'ottica completamente neoliberista di quella che è l'eredità della Thatcher. Quindi Lucca, per quanto è una città di cui poco si parla, è una città in cui i poteri forti, i poteri neoliberisti si organizzano e lo usano come passerella. Noi da studenti precari, disoccupati e lavoratori lucchesi abbiamo deciso di opporci a queste politiche d'austerity e appunto oggi siamo in piazza per questo. Ma non siete ancora partiti, immagino? Ancora no. Partiremo verso le 4:30. Bene, comunque il numero della radio penso ce l'avete, lo ripetiamo, 06 49 17 50, in ogni caso ci potete chiamare, se no ci sentiamo verso la fine del pomeriggio. Qui da Roma ti posso dire che il corteo è partito, non da tantissimo, e per adesso insomma è tutto tranquillo e insomma sarà una manifestazione molto molto significativa, secondo me. I numeri ancora non siamo in grado di darli, anche perché poi da dentro al corteo, lo dico anche a chi ci ascolta, non è semplicissimo capirlo. E quindi niente, per adesso allora ci salutiamo e buona manifestazione e buona contestazione al nostro Presidente del Consiglio. D'accordo? Ok, ciao. Va bene. Ciao, grazie.